don bilo ti matave velo non bevave lelatiku vaketia siku fo madilo faralela mitade avavula ti matiro feeling ni tombilo ti matave velo non bevave lelatiku vaketia siku fo madilo faralela mitade avavula. Timatiro, feeling ni tombilo. Timatave, pelo mumbe vave. Lelastiku vake jasiku fomatilo. Paralela, mitaga vapula. Timatiro, feeling ni tombilo. Timatave, pelo mumbe vave. Lelastiku vake jasiku fomatilo. Paralela, mitaga vapula. Vatik zoza la tua panov kumakurele. Marli, citat krai rai tambara. Alo za raifo di izraifo. Ti ai kualu, nazano tiampi yampilu. Parabat konitaka, tiasi kwa vertisma. Pania ize, na tova di karane. Pania, amuru misiluma. Ti ai kualu, nazano tiampi yampilu. Parabat konitaka, tiasi kwa vertisma. Pania ize, na tova di karane. Pania, amuru misiluma. Pania, amuru misiluma. Pania, amuru misiluma. Fania, amuru misiluma. Fania, amuru misiluma. Sote.